la funzione religiosa era terminata. Dopo che qualcuno ebbe ricordato le gioie presenti e future del cristiano, dopo aver cantato un inno, dopo una breve preghiera, era giunto il momento del mesto lavoro degli incaricati delle pompe funebri di chiudere la cassa del morto. Mio suocero giaceva nella bara nella posizione tipica di coloro che devono essere seppelliti, una bara ricoperta internamente di un panno rosso. Io osservavo con attenzione ognuno dei presenti, ma i miei occhi erano in modo particolare fissi su mia suocera, una donna di fede e piena di virtù. Aveva vissuto con suo marito una vita non facile. Tutti conoscevano la sua mansuetudine, specialmente palesata. Quando uno dei suoi figli cadde da una montagna e rimase per il resto della sua vita paraplegico. Aveva un compito immenso nell'accudirlo, ma soprattutto era immensamente sola perché suo marito non l'aveva aiutata adeguatamente, né fisicamente né spiritualmente. Anzi, come spesso succede a due coniugi che non si comprendono e non vogliono capirsi, lui incolpava lei di ciò che era successo. Incolpava il figlio per la sua testardaggine, per cui vedeva il tutto anche come una punizione dovuta alle loro colpe. Solo alle loro colpe. Mia suocera, per questo, soffriva doppiamente, sia perché era incolpata, sia perché non si sentiva capita né amata. Ed ora scrutavo il suo comportamento, in uno dei momenti peggiori del loro matrimonio. È vero che era stato doloroso l'annuncio del trapasso di suo marito, ma, come per ogni essere umano, anche se una notizia è dolorosa, quando questa si trasforma in una realtà visiva, al dolore intellettuale si aggiunge il dolore visivo e fisico. Guardavo fisso mia suocera e non vedevo trasparire in lei nessun segno di dolore, anche se il suo cuore soffriva. Come si sarebbe comportata? Mentre gli incaricati a chiudere la bara facevano il loro servizio, mia suocera a un tratto notò, come già avevo notato io, che il drappo che rivestiva la bara non era ben composto. Un lembo non era in ordine con il resto. Con passi fermi e delicati, mia suocera si avvicinò alla bara, prese il lembo del drappo e con gestualità tipica femminile lo prese fra le mani, lo mise in ordine, gli diede un ultimo tocco e, finalmente, si poteva dire che la bara avesse un drappo sistematicamente in ordine. Mia suocera fece appena in tempo a fare questa operazione, che vennero gli incaricati con il coperchio e chiusero la bara. Quel gesto l'ho ancora davanti ai miei occhi. Subito mi sono chiesto, perché sistemare il drappo di una bara? Il coperchio non avrebbe per sempre nascosto questo difetto? Perché mia suocera ha voluto interferire in un lavoro non di sua competenza? Cosa l'ha spinta a voler mettere in ordine quel panno e, stata una fissazione femminile, un tipico voler vedere tutto a posto? Quante domande mi sono posto, anche perché non credo che ci siano movimenti senza senso, pur riconoscendo che esistono gesti inconsci e istintivi. Subito ho pensato ad un aspetto negativo del suo carattere, un desiderio che le cose andassero come voleva lei. A dire il vero, non è poi una caratteristica unica e neppure isolata, perché tutti vogliamo, meno chi più chi meno che le cose vadano come a noi pare bene, perché noi abbiamo, nel profondo del nostro essere, la convinzione che il nostro punto di vista sia giusto. Così il drappo non era perfettamente a posto, ed era giusto metterlo in ordine, non importava il pensiero degli incaricati, e neppure dei presenti. Per mia suocera pensavo l'importante era che anche il funerale si svolgesse come lei riteneva opportuno. Poi mi sono ripreso e in quel gesto ho colto un altro profondo atto d'amore nei confronti di suo marito. Per mia suocera era l'ultimo gesto in assoluto da poter compiere nei confronti del corpo di colui che aveva accudito con dedizione per tanti anni in mille modi e in mille maniere e dal quale aveva anche avuto 5 figli. Era un gesto di addio, l'ultimo. Addio. Da ora in poi non lo avrebbe più visto né potuto toccarlo come aveva fatto precedentemente. Non era nella sua cultura buttarsi sul corpo del marito e piangere, anche perché aveva vissuto verso il marito una riservatezza di affetti, che meno, anche a occhi poco esperti, meno palesava. Un loro matrimonio vissuto quasi in modo meccanico, io faccio il mio dovere di moglie, tu fai il dovere di marito. Infatti mio suocero ha saputo dare alla famiglia un'esistenza onorevole, procurando il cibo e il vestiario necessario, anche se come marito ha avuto le sue grandi mancanze, mancanze che nessuno può giudicare se addebitabili a lui stesso, oppure costrette dalle circostanze. Gli psicologi hanno messo in evidenza che il coniuge più apparentemente colpevole spesso non lo è. Il gesto di mia suocera è stato il suo ultimo gesto di affetto. Almeno, in quel momento, non era rifiutato, come succede tra due coniugi che vivono pervasi dai doveri e basta. Quel gesto, quanto mi ha parlato, quanto è stato significativo. Molto probabilmente, dei due, lei è quella che ha sofferto di più sentimentalmente. Può anche essere un'analisi sbagliata, perché solo Dio conosce a fondo le nostre emozioni. Ma che mia suocera fosse molto dominata dai sentimenti era cosa risaputa. Infatti il coniuge che soffre di più in un matrimonio è quello che desidera un rapporto coinvolgente anche la parte emotiva. Condividere e dividere la proprie gioie e i propri dolori. Condividere le proprie passioni e le varie tentazioni che provengono dall'esterno. Partecipare ai propri sentimenti, anche i più nascosti, in modo che ci si possa vedere nella totale nudità della personalità. Un obiettivo, questo, raggiunto da pochi e, per lo più, non ricercato come meta dalle coppie. Il gesto di mia suocera mi ha toccato anche perché due coniugi possono non realizzare un vero rapporto di coppia, a causa dell'incapacità di accettare i limiti del partner, tuttavia nutrire lo stesso un certo affetto umano, dimostrabile nelle circostanze di maggior sofferenza. E è triste che non si sia in grado di esprimere normalmente durante la vita i propri profondi sentimenti di fuoco. Cantico dei Cantici 8.6, o non lo si possa fare per non sentirsi ripetere e non dire delle stupidaggini. Per questo, di tanto in tanto, penso ad una poesia che molti morti reciterebbero. Ora, non dopo. Dopo la mia morte non vedrò le tue lacrime. Non sentirò il profumo dei tuoi fiori. Non avvertirò il calore dei tuoi baci e la presenza in me del tuo corpo. Non mi giungeranno le tue preghiere. Non vedrò il pomposo funerale. Non apprezzerò il tuo denaro. Non vedrò i cieli accesi davanti alle mie foto. Non vedrò il tuo vestito a lutto. Non vedrò i fiori sulla mia tomba. Non sentirò i tuoi singhiozzi di rimpianto per non avermi amato o di rimorso per avermi offeso apposta. Ora e solo ora amami. Ora posso godere della gioia del tuo perdono, cogliere il calore della tua tenerezza, sentire la costanza delle tue preghiere, avvertire l'energia del tuo corpo in me, apprezzare il conforto della tua amicizia, immergermi nella schiettezza del tuo amore, ascoltare la solidarietà della tua comprensione, soddisfarmi nell'accoglienza della mia presenza. Ora e solo ora amami. Ora l'unico tuo debito sia quello di amarmi. La vita ci è da e ora, in questo tempo limitato, che posso dimostrare di amare Dio e il prossimo, perché dopo la morte non si può aggiungere né togliere nulla al nostro operato. E il matrimonio è proprio la relazione più importante dove dimostrare quello che siamo. Quel gesto di mettere in ordine il panno non poteva essere ripetuto, come non può essere ripetuta la vita. Ciò che si è fatto, non può essere cancellato né modificato, sia il bene sia il male. È vero che alcune cose possono essere in parte rimediate nella vita, ma ciò che è stato fatto è come se fosse eterno. Se quel gesto fosse stato il risultato di un ultimo atto di affetto, non avrebbe rimediato tutti gli atti di affetto che mia suocera poteva dare e che non ha dato. Com'è tremenda la morte! Com'è inesorabile! Nulla mi parla come la morte, definita come l'ultimo dei predicatori. La morte dice basta fine a tutto, sia all'odio, sia all'amore. È tremendamente spaventoso e fatale. Sbagliare un passo in montagna per cadere in un precipizio e, mentre cadi, sapere di non poter più rifare il passo sul sicuro. Così è del bene. Potevo aiutare il mio coniuge, e non l'ho fatto. Potevo esprimere il mio amore e sono venuto meno. Tormenta l'errore, è vero, ma non lascia indifferente la mancanza d'amore. Come disse qualcuno, meglio aver amato e perduto che non aver amato affatto. Forse quel gesto di mettere in ordine il panno mi ha toccato perché non vorrei fare la stessa cosa. Che non sia questo il vero motivo. Non vorrei trovarmi davanti ad una persona cara, che vedo per l'ultima volta e essere dispiaciuto di non aver fatto tutto il possibile per il suo bene. Che non faccia ora tutto il possibile normale, perché non sono perfetto e non è a questo che mi riferisco. Ma con tutto, intendo riferirmi a quello che è di mia competenza umana. Ma questa possibilità la vedo remota, perché io non aspetto il giorno della morte per fare un esame di coscienza, ma in ogni istante valuto il mio operato e il mio parlare. Ma come disse l'Apostolo Paolo, virgolette punto punto, non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. 1 Cor 4.4, questo è il cristianesimo. Un'esistenza libera dai sensi di colpa, consapevole di viverla nella volontà di Dio, e, a errore fatto, corrisponde una confessione adeguata, un abbandono immediato della trasgressione e un conseguente ritorno nella pace e nella gioia di Cristo. Il mio grande obiettivo della vita è quello di mettere in ordine con affetto e amore, 2 PT 1.7, ogni panno che vedo in disordine durante la vita, sia mio sia del mio prossimo, per poi lasciare gli altri ritocchi a chi si interessa di cose che appartengono alla morte. Così vorrei che facesse il prossimo per me. Aprile 2011. Ellero.